ne andavo e me ne andavo dal gruppo. Ero stanco dei non detti. Mi sì, ma no, non sei quello di una volta. Gli devo dirti una cosa, io non t'ho detto una cosa. Io non sei abbastanza avanti, io non sono al tuo livello. Io hai dimenticato le basi, io ho capito. Io non hai capito niente, io tu devi. Basta, basta, me ne vado. Anzi, mi hanno mandato via loro. Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via. Anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. Io allora benvenute a tutte e a tutti a una nuova puntata di Eclettismi Spaziali Sototropicali. Eh sì, amiche e amici, apriamo con il nostro amato, ma non da tutti in questa stanza, Remo Remotti, ma soprattutto un vocale lasciatoci da un amico, un anonimo amico, che con le sue parole ci ha riportato appunto al buon vecchio Remo, ma al tema del menevadismo. Esatto, pronipote dell'esodo, diciamo motore spirituale di tutti i fricchettoni, appunto come buon vecchio Remo. Ma quanti di noi amici da casa, quanti sono partiti e hanno cercato la loro strada o il loro posto nel mondo? Oggi le si volano a Rotemish, a Mandemish, a Estre, a Mandemish. Sono qui con me due amici che sono venuti qui a trovarmi e ecco qui due esempi di quello che è il doversene andare, che non è un escapismo, ma più inseguire un sogno, quello che purtroppo molte persone in questo momento non possono più fare, ma comunque si mettono in viaggio per cercare una casa, una nuova casa. Ecco, a loro penso entrambi e tre vogliamo un abbraccio. Sì, un caldo abbraccio a tutti quelli che se ne stanno andando. Eh sì, perché andarsene, e anche quelli che se ne sono andati, e a quelli che non se ne possono andare. Esatto. Eh sì, parliamo di andandismo. Ricominciare in un nuovo posto. Sì, abbiamo ricominciato. Quante volte abbiamo ricominciato? Eravamo altrove, sulle spiagge, sulle rive, fra i monti. Io invece le notti in città, prima avevo le pecore, ora parlo così. Perché fare teatro aiuta. Abbiamo capito, quando eravamo ragazzi noi si partiva la voglia di viaggiare, non è vero? Era la voglia di scoprire posti nuovi. Poi da quando il mondo un po' si è ristretto, sembra che non ci sia spazio per i posti nuovi. Ogni posto è già visto, conosciuto, twittato, clippato, toccato, tiktokato. Ma non c'è più spazio e possibilità da qualche anno di viaggiare, di poter andare in giro serenamente senza doversi preoccupare. Io me ne sono andato dalla Cina proprio perché c'era il Green Pass là, c'è un QR code, dovevo controllare, ho detto no, io me ne vado. Esatto, cercare un posto migliore, ecco, mettersi in cammino un posto migliore sia per conoscere qualcosa di nuovo, ma anche un posto dove poter ricominciare, appunto, sì, una rinascita, dai. Oh, Sessiz sakin durmak varken konuşup yorulana bilmem ne demeli. Aman yavaş, aheste, aman yavaş. Da quando ho smesso di scappare è cominciato il mio viaggio mistico. Da allora resto per andare e vado per restare, sperando che non m'arrestino. Thank you. troviamo in una situazione che non ci piace, a meno che non ci sia qualcuno che ci punta una pistola, reale o metaforica che sia, insomma non c'è nessuno che ci obbliga a rimanere. È una cosa che spesso dimentichiamo, ma nessuno ci può obbligare a rimanere dove non vogliamo stare. dicevo no, come il prezzo di partenza, dimmi. 2,80 euro. Ah, ma forse il signore vuole scherzare. No, no, no, che scherzare, 2,80 euro, prendere o lasciare. Me ne vado, me ne vado. Senta, va bene tutto, ma se lei è venuto qua per prenderci in giro, se ne vada. Se ne vada! Me ne vado! No, no, dove va? Cos'è questa fretta? Lo sapevo, voi venditori siete tutti uguali. Generalizzato, dato che la stragrande maggioranza dell'esercito ucraino, quello che militarmente si chiama il fixing, fermarlo attraverso l'utilizzo dell'artiglieria. In questo momento i russi hanno mosso tutto quello che hanno. Hanno portato le truppe di fuori dalla Bielorussia o dalla Bielorussia e dai Allora, teniamoci Così vicino a una finestra di profilo in controluce, voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. E io: andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo, ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No, sì. Ciao, arrivederci. Thank you. mentre la redazione di Ecletismi Spaziali Musicali era in ebollizione sui temi della transumananza, ricordai l'esistenza di questo brano che raccontava già la transumananza alla fine degli anni 90, forse erano gli inizi del 2000. E così nell'anfratto di un hard disk abbiamo trovato Eloquence. L'abbiamo trovato dopo due mesi di ricerca, attraversando tutti gli anfratti del forte e uscendo e ritornandoci dentro. Me ne andavo da quella RAM. Negli anni 80 io me ne andai. Come oggi i professori vengono dalla California, dal Giappone, anche io me ne andai. Nauseato, stanco di questa RAM del dopo Commodore. Io, allora giovanotto, mi trovavo di fronte a questa situazione e andai via da questa RAM anni 80. E me ne andavo da quella RAM ancora imballata, appena installata, quella RAM del volemos e bene, quella RAM dei circuiti, delle saldature, dei fili elettrici, dei chip e dei microchip. Quella RAM delle tastiere coi fili e senza fili. Me ne andavo da quella RAM dei transistor, dei diodi, delle resistenze. Quella RAM dei generatori, dei conduttori, degli isolanti, dei circuiti e di tutti quei fili intrecciati che non si sa mai se portano corrente o no. Me ne andavo da quella RAM dei bit e dei byte, della CPU e della cache memory, e dei buffer che sono sempre pieni, e dei floppy che non funzionano mai. Me ne andavo da quella RAM dei fax e delle stampanti che gli finisce sempre il toner, dagli scanner che non importano niente, dai modem che si connettono in analogico e i dati sono lenti. Me ne andavo da quella RAM delle SIM, delle DIM, dei PIN e dei jack. Quella RAM degli hard disk da 1x, 4x e dagli Omega Zip. Dai CD-ROM, dai DVD e dalle card memory. Me ne andavo da quella RAM con i monitor al plasma, con la webcam e con il mouse senza fili, che te fa sembra più bello. Me ne andavo da quella RAM che ci invidiano tutti, quella RAM del Macintosh, dell'IBM, dell'Olivetti, della Sony. Quella RAM sempre accesa, di giorno e di notte, funzionante con i virus, antivirus, plugin, codec, scandisk, defrag. Quella RAM Dell, che c'hai 2 giga, prestame 100 mega. Quella RAM del sistema operativo che portava e porta ancora il nome di Bill Gates. Me ne andavo da quella RAM di merda. Mamma RAM. Addio. Zitto, pronuncia chiaramente le parole, se no il pubblico pensa male. Me ne vado a fare il burro. E io che ho detto? Me ne vado a fare il burro. Thank you. set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Hiding in this empty house near Grover's Mill, all island of daylight cut off by the black smoke from the rest of the world. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. A life that has no continuity with the present. The furtive existence of the lonely derelict who pencils these words on the back of some astronomical notes bearing the signature Richard Pearson. Look down at my blackened hand. I believe at that moment the animal and I shared the same emotion. Joy of finding another living being. C'è una telefonata da casa. Ciao, chi sei? Come ti chiami? Da dove chiami? Ciao, sarò Franco. Sono Franco. E sarò Franco. Franco da dove? Franco da Roma. Dal Quadraro. E volevo raccontare una mia storia personale di scappato, di essere andato via. Sarà stata Israel 99, l'ultimo concerto di Fabrizio De André. Andammo con degli amici a lavorare a Bolzano, ce ne andammo da quella Roma a lavorare a Bolzano perché pagavano bene a Bolzano. E lavorammo 3 giorni, dopo di cui purtroppo il fattore non ci volle pagare. E mi ricordo mitica che lui che ci correva appresso col trattore e noi a marcia indietro col pandino, era Italia 90, non so se voi ricordate l'edizione speciale dei mondiali di Italia, e però Bolzano non è Italia, grazie, complimenti con la tradizione. Ci dice che sono arrivati dei messaggi sul nostro canale. Ne vogliamo leggere qualcuno? Ne vogliamo leggere qualcuno? Sì, mi sa di sì. Il canale Telegram bolle. Ne leggeremo qualcuno per voi. Questo l'ha scritto un nostro amico Roberto Bolle. C'è scritto in inglese, che adesso vi traduco, e fa: You're running and you're running and you're running away, but you can't run away from yourself. Cheat Bob Marley. La canzone ci dà appuntamente il fatto che tu puoi scappare, ma non puoi scappare da te stesso, che è un po' il metatema, diciamo. Il metatema, l'ho detto. Hai detto metatema.

quel forte dove nella bocca della balena bianca ci facevano il nido le rondini. Ciao Costa, come stai? Ma che fine hai fatto? Non ti si vede più al forte ormai da un bel po' di anni. Ma dove sono andato? Sono andato a mettermi in discussione con tutto e con tutti. Mi sono tuffato nella complessità senza rete, senza protezioni, senza ancora, senza porto sicuro. E confrontandomi con quello che trovavo, con le contraddizioni che ti porta la vita, sì, ne valeva la pena. Ne valeva la pena perché quando senti di aver esaurito un ciclo, la cosa migliore è rivoltare il tavolo e lasciarti sorprendere dal cambiamento, sorprendersi di qualcosa che non hai mai fatto prima, perché è un bisogno che viene da dentro. Uno può scegliere la sicurezza è anche di uscire dalla propria zona di conforto e sfidare la sorte, la vita, trovare qualcosa che ci accende dentro. Amado me. Amada mia, amore mio. Costa, e ora dove stai andando? E soprattutto, ne valeva la pena? E ora dove sto andando? Sto andando a ricostruire la mia casa, non quella di mattoni, la casa mia di Costantino come persona. Sì, è vero, ho fatto macerie, ho cambiato, ho fatto un sacco di cose, ma voglio gettare delle nuove fondazioni. Voglio ricostruirmi, mi sto ricostruendo da sotto, dal giardino, dal dissodare il giardino, dal mettere giù i mattoni su cui costruire la casa come mi piace a me, Costantino, come mi piace che sia, indipendentemente da quello che pensano gli altri. E mi prendo il tempo per fare questo e mi assumo la responsabilità delle scelte che faccio. Ecco dove sto andando. Me ne andavo da quel forte prenestino della falegnameria, dello studio della registrazione, della grafica, del disegno, della lavorazione del ferro, della serigrafia, del teatro, del cinema, della sala prove, dei gruppi musicali, dell'infoshop, della sala da tè, dell'enoteca, dei magazzini, della sala dei saltimbanchi, della palestra, del pub 12 de tutto, del dormitorio, della sala prove DJ, della taverna dove potevi mangiare qualunque cosa. Il forte dei tramonti in piazza d'armi, il forte delle sostanze psicoattive, dei pusher, degli amministratori delle sostanze, di una cartina, una sigaretta, un filtro, un'aggiunta. Il forte delle chicche, delle bottarelle, quel forte antiproibizionista che produceva un'erba da paura. Me ne andavo da quel forte prenestino delle assemblee, delle comunicazioni interne e esterne, del io avrei un progetto. Posso venire a abitare qua dentro? No, come no? E allora non ce lo scrivete fuori centro sociale. Quelle assemblee, certo, dopodiché, visto che dobbiamo prendere una decisione, adesso che si è fatto un po' tardi, sarebbe meglio parlarne in un altro momento. Me ne andavo da quel forte della sottoscrizione, del servizio d'ordine, degli assalti alla sottoscrizione, sì, siamo 1,37 euro, siamo in 9, ci fai entrare? Ah, vabbè, ho capito, c'è stato a fare i sordi. Allora non ce lo scrivete fuori. Quel forte prenestino di buonasera, sono un ispettore della SIAE. No, fermo, no, no, dico no, ah! Me ne andavo da quel forte prenestino libertario, anti-autoritario. Così anti-autoritario che non si sapeva mai se le decisioni erano prese per le cose dette o per il silenzio delle persone. Quel forte non allineato, sganciato da tutto, ma in relazione con il movimento sempre. Un po' per i cazzi sua, perché di qualunque cosa si tratti, noi non siamo d'accordo. Thank you. attenzione, in diretta qualcuno lascia il nostro gruppo di Telegram senza spiegare il motivo e noi siamo tristi. Sì, pronto, sono Armando, chiamo, sono uscito io dal gruppo Telegram, me ne sono andato al gruppo Telegram perché secondo me state comunque trattando un argomento con superficialità, per cui mi ha dato fastidio questo atteggiamento, diciamo, da persone che non riescono a prendere una posizione a livello contenutistico. Scusate. No, Armando, parliamone, noi ci prendiamo le responsabilità di quello che diciamo. Cos'è che reputi superficiale? Non hai detto niente, cioè, neanche l'etimologia della parola, del verbo, voce del verbo, ando. Dell'idea che si possa tornare a una normalità. Gli anni 20 hanno rimesso l'acceleratore alla storia, si va verso la risoluzione di tutti quei nodi che il colonialismo ha lasciato nel pettine, ma sarà una risoluzione inedita rispetto al passato. Le categorie si sono mescolate, sono saltate, il postmodernismo ha vinto ma anche perso. Le ideologie sono tornate a essere il discrimine del discorso, ma in maniera nuova, deturnata e memetica, digitale in poche parole. E se qualcuno ancora oggi storce il naso di fronte alla denazificazione dell'Ucraina fatta a nome dell'identità della madre Russia, ci sarà da divertirsi quando vedremo su quelle linee si spaccherà l'impero americano. E bota a culpa no signo. tudo por culpa do signo. Ai, ai, ai, esse signo. Ai, meu Deus, esse signo. E bota a culpa no signo. Tudo por culpa do signo. Ai, ai, ai, esse signo. Ai, meu Deus, esse signo. E bota a culpa no signo. Tudo por culpa do signo. Ai, ai, ai, esse signo. Ai, meu Deus, esse signo. E bota a culpa no signo. Tudo por culpa do signo. Ai, ai, ai, esse signo. Ai, meu Deus, esse signo. Eu quero ficar pra sempre. Vabbè, certo. A uno come lei può sembrare incredibile che esista chi rifiuta di difenderla. Che ci sia qualche sprovveduto capace di rinunciare al guadagno. Beh, esiste. E mo che padre vai? A perego, sei democratico? Oh, dico sei democratico? Sei democratico? E allora vado a far parlare, figlio. Was no longer there to wage war. Ce ne andammo per restare in cerca di una posizione. Non c'era più il papà a fare la guerra, ma di arruolarci non c'era voglia. Non sapere la rabbia dove scagliare, non avere argini su cui scivolare. Ci disperdemmo arrabbiati con la pace in bocca e istinti omicidi nel cuore. Li assopimmo sabotandoli, diventammo killer del presente. Ma non ricrescono solo i fiori e le gramigne tornarono in superficie, ma la pianta oppressione. Ma noi ce n'andammo in fuga da tutto, in cerca di niente. Abbandonammo così tanto ricordo, così tanto rimorso. We gave up. Eppure la gramigna rimane gramigna, mentre il fiore resta lì piantato e nessuno può portarlo via. in Ucraina. No, torno indietro. Sì, ci hanno sgamato. Sì, il nostro piano di scappare da una guerra in Africa per venire in una guerra in Ucraina per entrare in Italia. No, ci hanno sgamato. Sì, sono troppo forti, sono troppo intelligenti loro. Sì. No, non puoi venire qua a dire che stai scappando da una guerra in Africa. Cioè, 6 milioni di morti non conta un cazzo. Sì. No, qua non conta un cazzo, conta solo Putin. Conta Putin. Sì. Sì, ma torno in piedi, sono solo 30 giorni a piedi per arrivare a casa. Grazie di avermi ospitato qui, mi sono sentito a casa. La matriciana era buona, anche se non c'era il formaggio, però si sentiva tutte le montagne. Tornerò con piacere in questo. Esotismi spaziali sottotropicali. A tutti quelli che ritroveremo il mese prossimo per la 20ª puntata del ventennale della nostra trasmissione. Eccoci là. E anche eccoci lì. Siamo arrivati qui con voi. Per chi sta un po' qui, un po' lì. Io sono arrivato lì. Un po' lì, un po' là. Per chi se ne sta a pannà. Io me ne sono andato. Per chi rimane qua. Non sto tornando. Saluto a tutti quanti, a tutti gli emigranti. Puntata fuiuta. A tutti quelli che scappano. Tutti quelli che si salvano. Andata. Finita la nostra ora. Minni fui io. Vinni fui sti. Finni fui io. Shimmer a doubt. Me ne vai.